di essere qua. Effettivamente oggi è un giorno speciale, chiaro? Ok. Allora, perché questa cosa? Allora, in questi giorni il sole, che sarebbe il vostro segno zodiacale prima di tutto, è passato dallo Scorpione al Sagittario, quindi c'è stata una grandissima energia, ok? Allora, io ero proprio l'altra volta, ero qua quando passava il sole in Scorpione, quindi ho detto, vabbè, bisogna andare verso questo sole in Sagittario. Perché? Perché il sole in Scorpione, diciamo, ci annuncia quella che è la fine di tutto un percorso a livello di natura, ok? Siamo nel lasciare andare, siamo nel ciclo della morte, nel momento in cui delle cose o delle persone o delle situazioni devono essere lasciate andare per arrivare poi al Sagittario. Quindi nello Scorpione vediamo questa trasformazione dove sembra tutto finito, ok? Poi entriamo nell'energia del Sagittario. Il Sagittario è il terzo segno di fuoco, ok? Quindi dopo la morte apparente del Sagittario, scusate, dello Scorpione, troviamo il Sagittario che ci dice che nulla è perduto, che qualcosa continua, ok? E questo ci fa già capire che dopo che noi abbiamo superato il nostro ciclo di vita, comunque c'è qualche cosa che continua, ok? Questo è il segno del Sagittario. È proprio quel fuoco che dice che la vita comunque continua. Con questo sole nel passaggio del Sagittario, quindi oggi parleremo e cominceremo con il segno del Sagittario, perché comunque abbiamo uno stellium. Uno stellium vuol dire tanti pianeti nello stesso segno. Abbiamo il sole e la luna nuova che si è fatta ieri. Considerate che la luna nuova è sempre un nuovo inizio, quindi difficilmente avremo un sole e una luna nuova così vicini. Invece sono giorni così importanti proprio perché sono, diciamo, anni che stiamo vivendo delle situazioni difficili e quindi, diciamo, ho scelto di fare questa serata proprio perché c'erano talmente tante cose da dire che non riuscivo a scrivere nei post, ok? Stiamo finendo quella che è la quadratura tra Saturno e Urano. Questo che vuol dire? Allora, Saturno è la vecchia struttura, quello che è il passato, come è stata la nostra vita, e Urano è il cambiamento. Diciamo che Saturno-Urano ha caratterizzato proprio l'energia di questo anno, che ci ha portato a dei grandissimi cambiamenti, ok? Però questi cambiamenti in noi sono già partiti in primavera, ma in primavera sono successe un sacco di cose incredibili, nel senso, ok, facciamo questi cambiamenti ci sono tornati sopra un po' come una peperonata, il cetriolo, diciamo, no? Siamo andati verso questa direzione e sembra che, insomma, eravamo andati da male in peggio, ok? Ora, il discorso è che questo aspetto tra Saturno e Urano sta finendo proprio in questi giorni. Allora, io vorrei esultare su questa cosa, però purtroppo, esatto, attenzione, perché su queste cose sono della Vergine, attenzione, innanzitutto stanno alla fine questi pianeti e diciamo che nel momento in cui c'è un passaggio tra un segno e un altro, tra un aspetto e un altro, i pianeti ci danno delle cose che sono abbastanza particolari. Quindi diciamo che stiamo chiudendo questo ciclo tra la scelta tra il vecchio e il nuovo, ok? Le cose stanno andando verso il nuovo. Lo so che sembra assurdo, sembra incredibile, a livello politico e sociale sembra che sono no. È veramente assurdo, è assurdo, no? Ci troviamo veramente, però a quanto pare stiamo finendo finalmente questo ciclo, no? Proprio con i pianeti in Scorpione che dicono ok, basta, questa roba del passato ci dobbiamo, no, fare una chiusura, una pace e andare oltre, perché il Sagittario è proprio il segno dell'oltre. È un segno che comunque è governato da Giove. Giove è il pianeta più grande dell'universo, è un mancato sole. Tant'è vero che comunque il Sagittario c'è un ego incredibile, infatti sta passando. Ok? Okay. Questo è molto importante da sapere. Governati da Giove, la maestria. La maestria. Ok, ma come no? Io subito, chi mi passa in mezzo, come posso, colgo l'occasione. Allora, Diciamo, quindi a un certo punto in questi giorni, visto che stavamo andando verso questa fine di ciclo ed era impossibile scrivere tutto quanto, ho pensato di scrivere a loro e di chiedere di fare questa serata, un po' kamikaze, ok? Poi ieri ho scoperto, perché c'era una serata bellissima qua, sono venuta e ho scoperto che tre persone che oggi sono qui sono del Sagittario, quindi ieri c'era una festa, il primo dicembre ce ne sarà un'altra. Insomma, diciamo, la componente Sagittario invece fa proprio parte di questo luogo. E poi c'è un'altra ragazza che come me è della Vergine, che questi giorni sta subendo invece quelle che sono le energie del Sagittario. Ho detto, oddio, povera Federica, della Vergine, se no la farà con tre Sagittari. Allora, il consiglio della Vergine, attenzione, quando scegliamo le persone con cui lavorare, vediamo chi sono, ok? Perché ci sono semplicemente delle caratteristiche diverse. Allora, mentre la Vergine è l'organizzazione e l'ordine, perché dentro di noi c'è un caos incredibile, con Sagittario apprendiamo tutto come va, ok? Quindi abbiamo deciso di fare questa cosa e già siamo nel pienone, però ho capito che effettivamente questo mio istinto era giusto, ok? Come ho detto, io oggi sarei stata comunque a casa sdraiata, perché non è il momento della Vergine, questo sia chiaro, è il momento del Sagittario, ma è il momento anche dell'Ariete e del Leone, che sono segni di fuoco, ok? Soprattutto il Leone, che è stato mazzolato da anni e che sembra di, ma che sono nata a far Leone se mi dice così Iella, no? Che senso c'ha? Ma pure la Bilancia e l'Acquario in questo momento vanno a recuperare delle grandissime energie. Oltre al Sole e alla Luna Nuova, che è butto i semi per un nuovo percorso, noi siamo in un'energia di trasformazione totale. Abbiamo lasciato andare e dentro di noi si è creato finalmente un po' l'idea di quello che è il futuro, nel senso, dai, andiamo verso sto cambiamento, perché mi sono stufata di sto passato, non gliela faccio più. Allora siamo in questa simbologia del Sagittario. Non so se tutti quanti avete letto un articolo almeno su quello che è il Sagittario. Ho messo un po' questo accento sul fatto dell'ingenuità del Sagittario, perché tutti quanti noi adesso siamo presi da nuovi progetti, no? Proprio, Dio, io faccio più questo, non lo sopporto questo lavoro, voglio cambiare, voglio fare tutta una serie di cose belle, no? Quindi c'è questo impeto a cominciare delle cose nuove, però ci sono degli aspetti, dei pianeti che ci dicono attenzione. Quindi innanzitutto questo cambiamento tra il vecchio e il nuovo sta andando, no? La decisione l'abbiamo presa, ok? Quindi siamo tutti belli orientati ad andare verso questa nuovissima direzione. Ah, che figo! Però ci sono gli altri pianeti nel cielo, quindi abbiamo Sole, Luna, Mercurio e Venere in Sagittario. Mercurio è la comunicazione e Venere sono le relazioni. Abbiamo quattro pianeti in Sagittario che dicono basta, andiamo oltre, io non gliela posso fare più. Quindi siamo tutti presi da veramente grandissime intenzioni. Però questo discorso dell'ingenuità, perché il Sagittario, essendo governato da Giove, vede la positività e l'ottimismo ovunque. Ok, quindi tu dici adesso sai che c'è, mo ti do sta bella gomitata e me ne vado avanti e vado a prendere il mio percorso. Però i pianeti stanno sempre un po' in guerra. Allora, quello che sta succedendo nel cielo è che abbiamo un Marte da un sacco di tempo che sta in sosta in Gemelli. Gemelli è il segno opposto al Sagittario. Quindi tutte queste bellissime nuove intenzioni si vanno a scontrare contro una volontà. Allora, nel cielo questo Marte in Gemelli sta facendo un percorso. Innanzitutto ci fa lavorare sulla nostra volontà. Ok, non è prevaricare gli altri, nemmeno essere sottomessi, faccio quello che voi dite così non li chiamo e tutto a posto, oppure se fa come dico io e non me ne frega niente di te. Da qua a marzo lavoreremo su questa energia, perché non funziona. La nostra volontà deve essere la nostra e non deve coinvolgere gli altri, non deve prevaricare gli altri, Okay, quindi questo è molto importante. È un transito molto lungo e in questi giorni questo Marte, che è retrogrado, allora i pianeti vanno al contrario a livello astronomico, però diciamo che nella visione astrologica vediamo un Marte che va indietro, quindi è un'energia che non riesce a esprimersi bene. Quindi noi abbiamo tutte queste bellissime intenzioni, siamo veramente presi dall'entusiasmo e dall'ottimismo di andare verso il nuovo, ma vedrete che delle persone non saranno d'accordo con le vostre intenzioni. E questo è il punto, che noi nei prossimi giorni ci troveremo con questa grande enfasi di andare verso questa direzione, ma delle persone non saranno contente, soprattutto se la direzione coinvolge noi stessi. Quindi le altre persone, quando noi non saremo più sotto il loro dominio, si incazzeranno a bestia. Questo è importante da sapere. Quindi nei prossimi giorni, diciamo, è un mese abbastanza particolare in cui noi questo semino l'abbiamo gettato, stiamo andando verso questo futuro che comunque è incerto. L'unico segno sagittario è quello che sa andare oltre, ok? La Vergine non farebbe questo salto, ok? Però in questo momento il cielo collettivo conta molto, ok? Perché perdo tanto tempo a fare questa cosa? Perché comunque questi pianeti che sono in cielo, indipendentemente da come ci toccano a noi, sono quelli che ci governano, ok? Quindi siamo presi da una grandissima energia di benevolenza, ottimismo, dai, finalmente. E allora, considerate che io quando salgo sull'autobus adesso e fa freddo e non c'ho la mascherina, mi sembra strano, ok? Cioè, per assurdo, no? Sono contenta, però ci sono delle cose che accompagnano quello che è il vecchio... Ok, autunno e inverno che c'è stato l'altro anno, due anni fa, che era diverso da questo, no? Quindi mi sembra strano che stanno accadendo queste cose. Allora, noi dobbiamo andare sicuramente verso questo futuro, ma dobbiamo stare attenti del fatto che comunque non riusciamo a vedere le cose negative, perché siamo presi a bene, perché il Sagittario è così, è ottimista, dai, andiamo, e se per caso cadesse il mondo io mi sposto un po' più là, cioè non c'è sta il problema col Sagittario, però invece i pianeti ci metteranno in conflitto col fatto che il nostro benvolere finalmente si scontrerà col volere degli altri, pure questo c'è. Cioè, da capire e da verificare. Quindi ci troveremo in un mese abbastanza particolare, dove noi abbiamo deciso di andare verso questo futuro e nei prossimi giorni ci renderemo conto che a un certo punto ci sono dei dubbi che ricominceranno ad affacciarsi, perché c'è questo Marte retrogrado che comunque è in aspetto a Nettuno e questi pianeti in Sagittario andranno appresso a Nettuno. Traduzione: Nettuno è il pianeta dell'assenza, ok? Della confusione, dell'empatia. Sicuramente è un pianeta molto bello, però non ci fa vivere nella realtà, ok? E se noi andiamo a vedere che il Sagittario effettivamente si butta verso le situazioni senza valutare il fatto che ci possano essere problemi, ci scontreremo col fatto che nel momento in cui eravamo adesso siamo presi bene, le altre persone sono presi bene per altre cose. Quindi le altre persone pensavano che te ne andavi e te hai pensato di rimanere. E quindi ci sarà un attimino di scontro. Da qua, diciamo, all'8 dicembre avremo queste energie Sagittario, ok? Dove c'è stata la luna nuova, il 30 novembre ci sarà il primo quarto in pesci, quindi intorno al 30 novembre noi abbiamo preso delle decisioni, le stiamo portando avanti, però nel frattempo si affaccia sempre qualche cosa che ci richiama verso il passato. Attenzione, no? Ci sono quei dubbi che si insinuano dentro di noi, sia il 30 dove, ok, io comincio questo nuovo percorso, al 30 comincio a vacillare, ma è veramente giusto questo nuovo percorso che sto facendo? Cioè, un po' confusa, forse è meglio che rimango di là. Quindi lo ritengo un giorno importante proprio perché dobbiamo capire che è un mese fondamentale nella nostra vita per arrivare a quella che sarà poi la luna piena, diciamo, dell'8 dicembre, che sarà in Gemelli. Perché è importante questa luna piena? Allora, perché sarà, diciamo, in congiunzione a questo Marte, quindi tutte queste problematiche, diciamo, arriveranno a un punto di conflitto, ok? Sto andando verso quella direzione, soprattutto se io sono sempre stata accondiscendente con le persone, ok? A un certo punto non lo sono più, quelle persone non saranno contente, quindi mi verranno contro, ok? più noi siamo centrati più su noi stessi, più gli altri si cazzeranno, ok? E succederanno tutta una serie di energie abbastanza particolari. Noi dobbiamo seguire quella che è la nostra strada, però ci dobbiamo rendere conto che effettivamente, presi da un ottimismo più totale, certe sfumature noi non le abbiamo viste, e in questi giorni avremo la possibilità di vederle. Quindi occhi aperti, perché i transiti non bisogna scappare se sono negativi, né approfittarne, bisogna capirli in modo che noi possiamo approfittare dei benefici del cielo. Allora, come dicevamo, Ariete, Sagittario e Leone, essendo i segni di fuoco, sono quelli più toccati, diciamo, a livello benefico, ok? Finalmente torna questa grande energia che accompagnerà questi segni che sono, diciamo, orientati verso un creare sempre delle cose nuove in ambito positivo. Anche Bilancia e Acquario saranno messi molto molto bene questo mese. Chi sono i segni penalizzati di questo mese? La Vergine, i Gemelli e i Pesci. Ok, anche per il Sagittario in realtà è un momento di rinascita. Cominciamo proprio dal fatto del Sagittario. Abbiamo detto Sagittario, segno mobile, segno di fuoco, vedo tutto bello, vado verso oltre, non mi preoccupo dei problemi, no? Perché comunque vada, sarà un successo. In realtà poi i problemi comunque arrivano, noi noti arrivano sempre al pettine. Quindi non, questo non vuol dire di non andare verso questo futuro, però è pure vero che nella nostra idea, scontrandosi con la realtà, le situazioni sono un pochino più difficili di come le pensiamo, proprio perché comunque sto Sagittario il problema fortunatamente non lo vede, solo troverà in faccia, anche perché che cosa succede? Allora, sono mesi che il Sagittario ha questo Marte in opposizione. Marte è l'energia fisica, la volontà, ok? Il Sagittario in questo momento, in questi giorni, sta proprio rinascendo. Ho capito quello che è successo negli ultimi anni, ok? E devo prendere questa nuova direzione. Però, diciamo, in questa nuova direzione, con un Marte opposto, si va a scontrare con le altre persone. Quindi, per riuscire a far valere, diciamo, i miei diritti, sicuramente mi devo andare a ascoltare con altre persone. Però, voglio dire, è un mese di grandissime possibilità. Sole, Luna, Mercurio e Venere insieme vi spingono ad andare, nonostante ci siano dei dubbi, nonostante ci siano delle cose. Ricordatevi di chi siete, siamo quelli che vanno oltre, quindi se ci sono problemi vuol dire che la via non è la vostra e voi dovete andare verso una via che non ha problemi. Considerando pure che quando c'è la Vergine che vi dice che c'è qualche problema, ci dovreste stare a pensare. Comunque, okay. Allora, è un periodo di grandissima rinascita per questo segno, che ha, diciamo, di suo questa diciamo necessità di seguire le proprie credenze. Allora, come diciamo, questo Sagittario, no? Questa energia che troviamo tutti quanti, dobbiamo andare verso quello che crediamo noi, non quello che ci dice la scienza, non quello che ci dice la religione, né quello che ci dicono gli altri. Noi dobbiamo trovare la nostra credenza e seguire quello che noi crediamo, non ci dobbiamo affidare agli altri, perché se ci affidiamo sicuramente alle altre persone, sicuramente rimarremo delusi. Quindi adesso è il momento di riprendere in mano la propria vita, Sagittario, ok? Ci sono tutti i pianeti che vi chiedono in assoluto di rientrare dentro voi stessi, e diciamo che il Sagittario è uno dei segni creativi, come abbiamo detto, un segno di fuoco, quindi è un Sagittario che sta lì casalingo, in realtà non sta adempiendo al suo dovere, ok? Perché il Sagittario va oltre, oltre la casa c'è qualcos'altro, quindi bisogna cominciare di nuovo ad esplorare, così che vi sentirete sicuramente di nuovo in forma. Quindi considerate che nel momento in cui entrerete in voi stessi, quindi ok, allora ho capito che devo riprendere in mano la mia vita e devo andare verso la mia direzione, perché noi ci perdiamo solo quando seguiamo le direzioni degli altri. Questo è importante da sapere, un attimo, che uno ci guarda, non so, che ne so, sono sei mesi che sto da sola, una mi guarda, no? Le faccio travolgere e mi si stravolge la vita e cambio direzione, perché qua la persona mi ha guardato, perché io ho bisogno stabilisce una relazione, e invece no, non è quello un cazzo, ok? Non ci avremo bisogno di niente se non sta centrati su noi stessi. Anzi, la cavolata più grande della nostra vita, dai, così devo, è seguire strade dell'altro. No, non si fa. Sagittario, ritrovate la vostra strada, che è quello che dobbiamo fare tutti quanti noi, però in realtà voi siete quelli che di solito l'avete sempre aperta, però negli ultimi tempi vi siete persi. È importante fare questa cosa adesso, perché? Perché si apre un ciclo completamente diverso nella vostra vita. Quindi i pianeti vi spingono a entrare, diciamo, dentro voi stessi e seguire di nuovo questa grande, diciamo, visione della vita, che è bellissima, è anche spirituale, oltre a essere creativa, è spirituale, perché il Sagittario vede qualche cosa che è oltre la materia, ok? Cioè, da pensare che noi in questo momento ci troviamo alla fine dell'autunno, quindi se noi andiamo a vedere la natura, nonostante si faccia caldo eccetera, diciamo che le piante adesso, se sa chi lavora in agricoltura, lo vede che in questo momento sul terreno il seme sta sotto, non sta sopra, non stiamo a raccogliere, non stiamo in primavera, ok? Quindi siamo dell'energia interiore. Il Sagittario ci ricorda che oltre la morte c'è ancora una vita, quindi scorre all'interno di noi e c'è una coscienza, e soprattutto oltre la materia, quindi oltre il corpo fisico, oltre ai soldi, oltre al lavoro, oltre a sta cazzo di casa, no? Tutte queste cose che ci mette un po' in pericolo sta società, c'è qualche cosa che è oltre, noi dobbiamo andare verso quella direzione, perché la casa ce la possono togliere, il lavoro ce la possono togliere, ce la possono togliere qualsiasi cosa, allora noi saremo sempre in balia di qualcun altro, ma non è così. Noi siamo esseri individuali, siamo padroni della nostra vita, soprattutto da quando abbiamo superato, diciamo, la maggiore età, perché da bambini dipendiamo dai genitori, poi tutto il resto dipende da noi. Quindi se noi vediamo il nemico all'esterno, vuol dire che gli diamo potere all'esterno, no? Se noi pensiamo che tutto è manipolato, vuol dire che noi saremo sempre in balia di qualcuno che manipolerà noi, e noi saremo in balia, vorremmo essere vittime, ecco, usciamo dal ruolo delle vittime. Marte Nettuno ci dice basta con questo vittimismo, prendiamo in mano la nostra vita, e sti cazzi di sta società, e di sta Giorgia, o del Premier, o la Premier, o sta cosa, una... no, noi dobbiamo andare verso la nostra direzione, è importante. Ora, è assurdo ragazzi, è bello vedere una donna là, poi tu dici cazzo è Giorgia, c'è bevo sopra, è assurdo, quello è nuovo, quello è nuovo, è assurdo, dai, però è bello da vedere, confronta tutti quei babbioni che si sono visti nei 20-30 anni della vita nostra, eppure una donna gradevole all'apparenza, all'apparenza. È spaventoso quello che sta succedendo, stiamo andando verso questo nuovo. Allora, Sagittario, è in mano di riprendere in mano le redini della propria vita, perché è il momento di cominciare un nuovo grandissimo ciclo, quindi è il momento per rinascere. E questo momento per rinascere vuol dire che in questo periodo sarete talmente tanto ricercati che vi dimenticherete di tutto quelle situazioni passate negli ultimi anni in cui sembrano non vi si sono affilati, cioè questo è quello che pensate voi, in realtà vi si fidano sempre, però ultimamente non avete avuto fiducia. La fiducia è il punto fondamentale della vostra vita, quindi non potete pensare di attaccarvi alle credenze esterne se non avete fiducia in voi stessi. Ritrovate il contatto con la vostra bussola interiore, perché questo è il momento per capire effettivamente dove volete andare nel futuro. Tanto voi siete un segno che non si potrà fermare mai, ok? È lo stimolo, perché se voi vi fermate, poi dopo la morte non c'è più niente, noi moriamo tutti, ok? Quindi mi raccomando, rientrate nella vostra energia, sentirete in questi giorni rinascere sostanzialmente con l'altra persona, quindi centrate su voi stessi e seguite la vostra direzione. Non mettetevi in competizione, perché la competizione in questo periodo per il Sagittario è molto importante, quindi ci sono delle situazioni a livello soprattutto relazionale, ma anche lavorate, ma relazionale non per forza di coppia, sto collaborando con altre persone, io voglio fare questa cosa e altre persone ne vogliono fare un'altra, però ricordiamo che c'è questo Marte Nettuno, allora non è che se l'altra persona non fa niente non se ne fa niente, oppure se va come dico io, troviamo il giusto modo per poter collaborare. So che è difficile, però in realtà siete un segno che è molto aperto nei confronti degli altri, quindi riscoprite questo ottimismo innato, perché nel momento in cui quell'ottimismo vi manca, poi dopo andate in una depressione più totale, ok? E non fa parte del vostro percorso di vita, ossia sì, fa proprio parte del blocco. Quindi però adesso, dopo tutto questo passato così conflittuale, serve proprio per rimettervi in carreggiata e andare verso la direzione giusta. Quindi è un momento altamente importante. Vedete che in questi giorni dentro di voi, ascoltatevi, perché c'è la vocina, c'è cioè tante di vocine dentro di noi che vi guideranno verso che io voglio questo, e se volete quello dovete cominciare a lottare per raggiungere quella situazione. Però lottare non è, vuol dire imporsi, perché avete questo Marte in opposizione, quindi io non mi devo incazzare e dite che io voglio rifare questa cosa. Voi sapete che quella è la vostra direzione, la dovete raggiungere senza imporvi. Allora in quel momento le situazioni si apriranno. Capisco che è un momento nodale, perché ci stanno un sacco di sagittari. Due giorni avete alzate le mani di sagittario, perché ce ne stanno tantissimi oggi. Benissimo. No, proprio perché effettivamente grazie, perché per tutti noi questo è un momento di rinascita, sicuramente anche per voi. Però indubbiamente voi state, dopo aver percorso tanti anni in un determinato modo, state andando verso una nuova direzione. Vedrete che il prossimo anno sarà ancora impegnativo, però questo è per rimettervi sulla vostra carreggiata. Quindi non sta, allora il discorso è non stare a guardare al passato, ok? Oppure stare a guardare, non rimanere, no, sono sbagliato, perché guardare al passato è giusto. Non rimaniamo ancorati al passato, perché il passato ci serve, la memoria. Se noi non ci avessimo la memoria dalla prima e dalla seconda guerra mondiale, già avremmo fatta la terza. La situazione era già pronta. Saturno e Urano ci dicono che la terza guerra mondiale sono passati, non è esplosa, non succederà. Questo è importante da sapere, ok? Quindi c'è da festeggiare, però insomma dovete capire che bisogna andare verso questa direzione. Quindi auguri per le vostre nuove scelte, ok? Seguite quello che sentite nel cuore, perché il sagittario solitamente va a seguire tutti i miliardi, no, di strade che vengono date dagli altri, e invece è importante seguire la propria strada, ok? Quindi augurissimi, perché la situazione è promettente sotto tutti gli ambiti. Bisogna ricominciare ad andare verso una direzione. Allora io sto facendo comunque un oroscopo generico, quindi vi prego di sentire sia l'ascendente che il sole, ok? Ora gli aspetti, quindi questa congiunzione sicuramente riguarda il sagittario. Il sagittario si trova solo in luna, Marte e Venere, è ora di ricominciare. Però sagittario dovete ascoltare anche l'ascendente, perché è lì che vedrete, quando parlerò di case, dove si trovano veramente i pianeti. Ok, questo riguarda tutti quanti i segni, perché la sagittaria è una cosa altamente complessa. Allora, dopo il sagittario volevo fare l'ariete, dopodiché queste cose che si compaiono così, no? Oggi è una giornata incredibile. Dopo il sagittario faccio l'ariete, eh? Noi siamo le bimbe di astro. Ariete, siete pronti? C'è un ariete che deve andare via, perché vanno sempre di fretta sta ariete. L'ariete, no, io c'ho l'ascendente. Allora, ciao, ecco, ariete. No, io, questa energia che si muove prima, cioè prima dici le cose e poi le hai fatte, e ti rendi conto di, ma che cazzo faccio? Allora, l'ariete è un segno di fuoco come il sagittario. Allora, il sagittario è quel segno di fuoco che è un po' la brace che scorre sotto. Come abbiamo detto, se poi cadono dall'albero creano il compost. Chi sta in natura in campagna sa che queste diciamo foglie creano questo calore sotto, ok? Quindi permettono a sto seme di continuare a ricrescere, a riformarsi. Mentre l'ariete è l'inizio della primavera, quindi è questo seme che esploderà a primavera, che prende a capocciate la zona di terra per dire ok, è il momento di ricominciare, ok? Allora, diciamo che per l'Ariete, ultimamente ci sono stati conflitti a livello lavorativo relazionale per quanto riguarda settembre-ottobre, poi a un certo punto c'è stato un ok, mi chiudo a riflettere, ok, mi chiudo a riflettere, a studiare, a vedere tutta una serie di cose per ripartire alla grande. Quindi in questi giorni l'Ariete potrebbe trovarsi in situazioni veramente interessanti, perché abbiamo quattro pianeti in trigono, ok? Quindi è il momento sicuramente giusto per riprendere determinati percorsi. Questi percorsi sono nati a primavera, quindi l'Ariete si trova con, diciamo, il fatto che in primavera sono partiti dei nuovi progetti, sono successe delle cose, è stato tutto bello, è stato tutto figo, a un certo punto le cose si sono bloccate e sono cambiate, ok? Dice no, vabbè, allora niente, sfiga, non succede niente, no? Perché praticamente l'Ariete è o è tutto bello o c'è un nemico che mi sta a colpi a spalle e quindi ti ammazzo, ok? L'Ariete è questo, pensa, c'è qualcuno che mi sta a fotte, ciao bellezza, no? Allora Ariete, se i nemici in un modo o nell'altro sono battuti, ok? Con i pianeti in Ariete, madonna quanto mi piace, io so canara, quindi sono contentissima, mi sta muovendo tutti i pianeti tremano, quindi in questi giorni no, perché io volevo dire che sta finendo la cosa di terremoto, in realtà negli ultimi giorni avremo ancora qualche smottamento, il cane me l'ha confermato. Ariete, è un periodo ottimale, perché che è successo? Eravate presi da buone intenzioni, avete lanciato sti semini, erano nati sti semini, era tutto bello, ma a un certo punto qualcosa si è messo contrapposto. Si è contrapposto qualcosa per Sagittario, una, scusate, per l'Ariete è una benedizione, perché pensate che se non succedeva questa cosa, ma l'Ariete già saranno rotte le scatole, ok? Avevano già cambiato strada, e invece no, hanno trovato una problematica e dicevano vedi che figo, allora devo insistere proprio su questo percorso. Bravi, insistete su questo percorso, perché è un momento molto molto promettente. Diciamo che Mercurio e Venere presto si sposteranno nel segno del Capricorno, e quando i pianeti sono in Capricorno l'Ariete diventa un macello, quindi vi dovete muovere adesso in questi giorni da qua al 6 al 10. L'Ariete tanto non vi preoccupate, al momento in cui gli dici dai agisci lo fai in un nanosecondo, ok? Quindi non è che è come il Toro, gli devo devi agire dopo una settimana, che mi hai detto che devo fare? L'Ariete gli ha detto guardate che agire, già agito, agire è tutto meraviglioso, state davanti a delle situazioni altamente promettenti, viaggi, studi, nuove situazioni, abbracciatele perché è il momento giusto. Poi succede una cosa, Ariete, praticamente dal 6 dicembre Mercurio entra in Capricorno per un sacco di mesi, fino all'11 febbraio. Quindi tutto quello che dovete dire, tutto quello che dovete fare, lo dovete fare da adesso al 6 dicembre. Io non so che voi siete capacissimi a farlo già da domani, non c'è nessun tipo di problema, perché tutto quello che succederà dal 6 dicembre in poi semplicemente diventa più conflittuale. Lo so che voi vi piace questa cosa, però se a voi adesso andate, che ne so, vi devono dare i soldi di un vecchio lavoro, chiedeteli in questi giorni, prima del 6, dal 6 aspettate il prossimo anno, non state ad aspettare il momento giusto, non andate a trovare quel lato insicuro dentro di voi, perché la rete è vero che è coraggiosa e si butta nelle situazioni, però sotto sotto in realtà c'è l'insicurezza, lo faccio o non lo faccio, ecco, la stronza vi dice fatelo da qua al 6 dicembre, dovete dire tutto quello che pensate, dovete chiedere tutto quello che vi devono dare, da qua al 6, dai, sono 10 giorni, secondo me l'Ariete riesce a fare di tutto. Dopodiché non è che vi dovete sopprimere, semplicemente quello che non dovete fare, cioè i soldi vanno spesi adesso, qualsiasi cosa comprate adesso va bene. Invece dal 6 con un Mercurio negativo, che ne so, devo viaggiare e il treno mi cambia, devo sparmi i soldi, mi compro una cosa ma non è quella giusta, Il discorso è soprattutto, parliamo adesso che le persone mi ascoltano, dopodiché la situazione diventa più conflittuale. Io capisco che in fondo, in un certo qual modo, alla rete piace la conflittualità, ma bisogna vedere se è un'altra persona che interessa. Per il momento comunque la situazione è altamente promettente, no? Mettiamo la rete tra i segni, diciamo, più in alto, proprio perché queste energie in Sagittario sono molto favorevoli a questo segno che ha già toccato Giove, e dal 20 dicembre comunque Giove ritornerà nel vostro segno. Quindi diciamo che l'anno vi vuole dare ancora qualcosa, ma vi vuole dare ancora qualcosa soprattutto se voi agite, perché se non agite non me dà niente, ok? Quindi godetevi la vita, perché è un momento veramente eccezionale. Poi la parte, diciamo, di sotto dal 10 in poi, la parte di dicembre, un pochino più complessa, però Ariete, se voi ci pensate sempre, avete mai passato un Capodanno felice, scusate, un Natale felice? È difficile. Esatto. Non l'avete mai passato, dovete cambiare segno per Capodanno. Quindi un'altra vita. Divertitevi adesso, poi sapete che il periodo sotto Natale vi tocca sta appresso a delle situazioni che non vi piacciono e quindi ve la potete giocare a strategia. Questo è il momento ottimale per far valere le cose nella vostra vita, mi raccomando, ci sono veramente tutti questi grandi eventi che vi aiutano e l'inizio dell'anno sarà veramente promettente. Ora, sinceramente, dopo aver fatto il Sagittario e l'Ariete, io farei il Leone, poi farò il Toro, la Vergine e il Capricorno, va bene? Oggi famo così. Siete d'accordo? Non siete d'accordo? Io sono tutti i pareri contrari, Leone, alzate le mani! State per abbandonare. L'inizio dell'anno comunque va a rete altamente promettente, Inizio non è vero, è un po' troppo complesso, vabbè. Allora considerate, però mo vi dico, prima di cominciare Leone, che il 30 dicembre Mercurio è retrogrado, quindi sto capodanno solo da con faccia, non mi è mai piaciuto, sono contenta. Leone, terzo, Leone è il secondo segno di fuoco. Allora abbiamo detto che il Sagittario ha questo fuoco da brace, quindi il fuoco della speranza. Se non c'è fosse il Sagittario saremmo tutti morti e non rinasceremmo e non c'è niente oltre la vita. Quella rete invece è l'inizio della vita, no? Perché prima siamo nel tutto uno, quindi bisogna cominciare. Con Leone siamo nel fuoco rigoglioso dell'estate, siamo nel centro della nostra vita. A me, io comunque vi ammiro a voi, perché c'è un compito speciale che io sinceramente non voglio avere, perché in questa vita chi nasce Leone deve fare qualche cosa di importante, ok? Quindi in un certo qual modo c'avete un grande carico, e uno dice, no? Perché? Perché il Leone è il fuoco centrale, soprattutto è governato dal Sole. Quindi chiunque nasce del Leone in questa vita, in questo momento, ha un compito importante, dovete fare qualche cosa di speciale e di diverso. Non è vero che vai dal Leone e gli dici che sei normale, praticamente tutto è sguzza, si suicida. Allora non arriviamo a questi livelli, ma diciamo che dopo anni in cui c'è stato un Saturno in opposizione che ha forgiato questo segno, quindi il Leone negli ultimi, dal 2020, diciamo dal dicembre del 2020, sembra che è arrivato praticamente a spada di Damocle qua. Non è mai finita la sfiga, ma perché? Perché praticamente è successo che c'era Saturno in opposizione, un Giove che ha rotto le scatole e tanti altri pianeti, che ha messo, diciamo, il Leone di nuovo, stai appresso a qualcun altro con una vita tua, può essere tuo figlio, può essere tua madre, tuo padre, quello che ti pare, stai a sbagliare strada, perché comunque il Leone purtroppo deve stare centrato sulla sua propria strada. Abbiamo detto, deve fare qualcosa di speciale. Questo non vuol dire fregarsene degli altri, perché comunque uno, il Leone, diciamo, è uno dei segni che meno si capisce, proprio perché c'è tra la centratura di se stessi e l'egocentrismo. Allora noi dobbiamo uscire dall'egocentrismo, ecco, ok? Però invece essere centrati su se stessi è un altro discorso, e allora è lì che funzionerà il leone, quando non si va a spostare, diciamo, la sua attenzione e quindi si prodiga verso tutte le altre persone che hanno bisogno, bisogna rimanere nella propria centralità. Questi pianeti in Sagittario vi portano finalmente, leoni, ascendenti leoni, in una situazione veramente interessante, promettente e soprattutto soddisfacente. Ok, soprattutto l'ascendente leone, ma anche il leone, si trova i pianeti in quinta casa, che è la casa del divertimento, sesso, hobby, figli, attenzione a chi non li vuole, perché la situazione, soprattutto ascendente leone, potrebbe comunque succedere, per chi li vuole potrebbe essere il momento giusto. Quindi io per il leone, dopo tanti anni di fatiche, di difficoltà, di ostruzioni, io voglio arrivare lì e invece si sono messi tutti a tranciarvi, no, capito, le gambe. In questo momento, in questi giorni, la situazione è altamente promettente, quindi vi raccomando di non sprecare queste grandissime energie, perché potete chiedere avanzamenti nel lavoro, possono nascere relazioni interessanti, diciamo che si sta smuovendo finalmente qualche cosa di grosso, ok? Ora diciamo che nella seconda parte di dicembre il leone si troverà anche a dover lavorare, però in questi giorni sono proprio i giorni del mi diverto e faccio come mi pare, quindi mi raccomando leone, uscite e divertitevi, fatemi avanti su quelle che sono le vostre intenzioni, perché ci possono anche essere degli innamoramenti, ok? Soprattutto per l'ascendente leone l'innamoramento, dimmi da quando a quando? Da qua a 10, sono qua per questo, da fino al 10. Ora questo non vuol dire che poi le cose andranno male. Allora 6 e 10, allora il 6 è Mercurio, ok? Però poi vai Mercurio in Capricorno, non vi mazzolerà come fa all'Ariete. Al leone Mercurio in Capricorno non gli creerà problemi, farà lavorare di più, quindi leone adesso voi vi state a divertire, però andate così bene, siete così richiesti, che poi vi ritroverete nella seconda parte di dicembre a divertirvi, mentre il Capricorno deve mantenere, diciamo, il suo status sulla sua posizione, ma comando io, ok? Il leone invece devo fare delle cose tutti i giorni, quindi in realtà allora ha bisogno di grandissimo riconoscimento, è del divertimento, perché la quinta casa è proprio quella del leone, quindi vi divertirete in questo periodo, però poi adesso che vi divertite, quindi bravi che siete usciti adesso, perché poi invece nella parte di dicembre vi faranno tante proposte lavorative. Queste proposte lavorative però sono benefiche, non succede niente, non è col Capricorno che vi andate a scontrare, ok? Per il momento siete protette, ok? Questo è importante da sapere. Il prossimo anno sarà di grande liberazione per il leone, quindi il leone deve essere contento, perché il prossimo anno passa lo scettro della sfiga alla Vergine. Da sapere. Quindi 3 anni di sfiga? Non è vero che è sfiga, è di Saturno che vi fa rimettere sulla vostra strada, non è una sfiga. Ritroverete la vostra strada, ok? Quindi mi raccomando, adesso è il momento clou, non lo sprecate nemmeno una cavolo di giornata per godervi, no? Questi transiti così eccezionali, poi la parte di dicembre comunque non starete male, ma sarete più orientati a occuparvi del quotidiano, di andare a prendere mia madre, mio padre, mio figlio, devo pulire casa, ok? Beh, adesso vi divertite. Quindi non dite di no se vi invitano a uscire le amiche o qualche cosa, perché la situazione è veramente promettente. Quindi, i segni di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario sono i favoriti da qua fino al 10 dicembre. Ma dal 20 di dicembre torna Giove, quindi non vi preoccupate, perché sembra che i giorni conti ci sarà Giove, che è il pianeta della fortuna e dell'espansione. situazione che vi riporteranno quelle situazioni innate a primavera che sembravano promettere così tanto e che poi in realtà non vanno dato molto. Vedete che non vi preoccupate, perché comunque sotto Natale, nonostante ci siano questi lanci di pianeti veloci che vi rompono le scatole, vi tornerà il cadavere che vi passa sotto, ok? Quindi preparatevi, arrivate leone e sagittario, avrete ancora anche il leone e il sagittario, eh? Avranno un inizio di anno molto interessante. Adesso passiamo a quelli che sono i segni di terra. Quindi c'era toro, perché per carità già è tanto tempo che stanno qua, poi facciamo la vergine e poi facciamo il capricorno, ok? Allora cominciamo dal toro, questo segno che in questo momento, allora innanzitutto dovete, già che siete usciti toro, alzate le mani, già che siete usciti, esatto, doppia mano. Allora il toro esce da una situazione dove si è scontrato col mondo intero, ok? Allora sono anni indubbiamente di messa alla prova, ok? In cui i pianeti hanno chiesto al toro di dire: sì, è bello il tuo cavolo di giardinetto, ok, però queste piante sono sempre le stesse, forse magari mettici una piantina nuova, però mi potrebbe rovinare le altre piante. Quindi c'è stata tutta una serie di costruzioni. Diciamo che fino a qualche giorno fa il toro si è scrociato col mondo intero quando non voleva, cioè il toro vive con tranquillità, mangiamosi una lasagna, che ne so, un roast beef vegan, ma pure carnivoro, mangiamo, divertimosi, no? Godiamoci la vita. Negli ultimi anni non gli hanno permesso minimamente di vivere in questa energia. In realtà quello che consigliavo prima a un toro passato al volo, ora non mi ricordo chi era, però toro, non dovete lottare in questa vita, accannate questa idea di dover lottare per difendere, che voi non dovete difendere niente, è l'ariete che difende, voi dovete godere, quindi finché state in difensiva non godrete mai. Allora mettetevi nella situazione in cui, ok, non devo star là, difende niente, i pianeti finalmente dallo scorpione se ne sono andati, le opposizioni si sono annullate e finalmente c'è questa, diciamo, possibilità di godersi effettivamente la vita. Allora, diciamo che non è questo dicembre, allora, diciamo, non è questo inizio dicembre, è più dal 6-10 che il toro godrà, perché i pianeti vanno in capricorno e il toro lo sa perché gli piace Natale, mentre appunto alla fine sta sul cazzo sto Natale con sti parenti che io comunque vederei poco, e il toro, oh che bello, ci ritroviamo, condividiamo, facciamo la grande tavolata, facciamoci i regali. Allora sta per arrivare questo momento. Fortunatamente gli scorpioni si sono allentati, siete stati, diciamo, fino all'altro ieri, penso, con i capelli dritti a scannarvi quella qualunque, no? Esatto, anche oggi. Però diciamo che la situazione si sta pulendo, perché allora è il momento di fare un pochino di sana introspezione, nel senso che dopo tutto questo diatribe che sono successe con le altre persone, dovete capire che effettivamente se voi continuate a tenervi la lista dei torti subiti nella vostra vita, non farete altro che richiamarli nella vostra vita. Quindi quello che dovete fare adesso, dovete andare dal sagittario che è capace, che vi dice i problemi non esistono, soprattutto questo passato ci dovete fare un falò, ok? Basta! Allora voi avete imparato l'esperienza, però se voi continuate a ricordarvi tutta sta roba, vi si ripresenta la vita, perché voi proiettate quello? Quindi niente, dovete andare al sagittario, fare queste cose un po' da Jodorowsky, queste cose un po' psicomagiche, danno fuoco al passato, e fate oppure prendete tutte le verdure marce del frigorifero, le mettete a bollire insieme, le frullate, vi date gli amici, le prendete, brindate, che ne so, e ciao, questo passato, ci famo le verdure, ciao, basta, avete imparato l'esperienza, poi si sarebbe ricordato che tizio ha fatto quello, l'aiuto ha fatto quell'altro, perché quell'altro, niente, non funziona, invece voi dovete togliere le stanelle al dito e andare verso un futuro migliore. Il prossimo prossimo anno è altamente promettente, ok? Quindi che serve fare adesso? Cioè, vedi, vedi in ottava, soprattutto l'ascendente. Quello che vi serve da fare adesso è un po' di sana introspezione, ossia quello che mi è successo con Tizio era quello che mi era successo 10 anni fa con Caio. Quindi vedete che la dinamica è la stessa. Quindi, se la dinamica è la stessa, il problema non sono l'altro. Il problema non è che siete voi, è la dinamica che si mette in atto. Nessuno di noi ha un problema, ci tengo a specificarlo. Se noi ci si ripresentano sempre le stesse cose, no? Quindi io, che ne so, incontro una persona, gli offro tutto, quella persona si via tutto e poi se ne va, forse dovrà cambiare. Io offrire tutto, gli posso pure un po' offrire di meno, ok? Quindi è... Toro, guardate un attimino indietro, però non a livello rancoroso, ok? Un nuovo modo di guardare indietro per vedere, ok, questo mio atteggiamento mi ha creato questo, questa persona, questa. Allora che faccio? Io cambio atteggiamento, così riesco a ricevere delle cose che io voglio. Considerate che il prossimo anno sarete proprio all'apice dei segni più fortunati, però dipende da voi. Se non fate sta pulizia, sta roba non succede. Quindi mi raccomando, chiudete a casa a riflettere, che mi piace tanto, ma no a ricordarvi l'arte subito, a dire ok, devo cambiare io in modo che sta gente non me la tiro più. Il prossimo anno è altamente promettente, quindi diciamo ci sarà un momento di introspezione. Dopo il Toro, c'era una rete che andava di corsa, invece sta tutto rilassato là sul divano, non va più di fretta. E io ci credo sempre, eh. La Vergine. La Portoro, la Vergine. Siamo tutti in piedi contrari, Vergine. Siamo Sole, Luna, Mercurio, Marte, Giove, Nettuno. Ma non ce ne frega niente, noi siamo abituati veramente a passare i problemi. Che ci sembra che la normalità è questa? No, Vergine, la normalità non è questa. Usciamo da Madre Teresa di Calcutta. Basta con questa sofferenza, con la sofferenza cresci, perché serve, ti forgi. Tutte cazzate che si raccontano. Allora, abbiamo una fracca di pianeti che ci stanno dicendo che abbiamo delle problematiche in casa, con le situazioni vicino casa. Le situazioni non funzionano, scarico del pidè. È grave, eh? Quando non funziona il pidè è veramente grave. Sono problemi grossi. Insomma, tutta una serie di problematiche in cui la Vergine in questo momento, dopo che sono successe tutta una serie di maturazioni di decisioni, diciamo, la Vergine sta andando verso questo tipo di vabbè, a me sta situazione non mi soddisfa più, allora devo andare verso un'altra direzione. Però queste direzioni in questo momento sono ostacolate, no? Perché? Perché è il momento appunto di andare a vedere sempre queste dinamiche che noi creiamo in atto, ok? Perché insomma, se le soluzioni che troviamo in un certo qual modo le favoriamo. Questi pianeti ci stanno dicendo di valutare bene, quindi di diciamo, non nemmeno fare troppi pignoli appunto con gli altri, però di rendersi conto di tutta una serie di cose in cui ce la possiamo prendere anche con calma, razionalizzare un po' quello che succede, perché i pianeti in Sagittario sono molto in conflitto con la Vergine che vuole tutto programmato. Allora io vado in questa direzione sta andando lì e io so bene dove andare. La Vergine si muove su strade sicure, no? Devo fare questo tragitto e lo faccio. In questo momento però stanno vacillando queste strade sicure, quindi la Vergine si trova ad andare in percorsi che non danno una certezza. Quindi diciamo che è un po' sentirsi sperduti in questo percorso. Però fortunatamente diciamo andiamo a vedere un pochino quello che succede, magari non riusciamo a vedere le esigenze degli altri, siamo così fissati con il nostro ordine, la nostra disciplina, che invece altre persone hanno difficoltà a entrare dentro questa situazione. Ci sono insomma situazioni conflittuali sicuramente fino al 6-10 dicembre, Vergine. Più voliamo bassi meglio è, proprio perché c'è una fatica c'è un Marte in quadratura da un sacco di tempo, siccome la Vergine è malata del fare, perché comunque noi ci ammazziamo di pippe mentale, no? Quindi dobbiamo fare 3 miliardi di cose, perché sennò c'è questo cervello che va in profusione. Cerchiamo di acquietare la mente e diciamo considerare il fatto che il momento di agire sarà più dal 6-10, e che in questo momento sarebbe il caso di starsene lì a sistemare tutto ciò che riguarda il passato, ok? Quindi insomma anche i vecchi hard disk, per farvi esempio, ok? Tutta una serie di cose, in modo che comunque ci possiamo proiettare verso un futuro che sicuramente è diverso. Ora, per quanto riguarda la Vergine, come ho detto all'inizio, la Vergine si troverà in opposizione Saturno, ok? Quindi è importante le decisioni che prendiamo adesso. Nei prossimi giorni noi saremo completamente spaventati dal fatto di aver scelto di prendere una strada senza avere una certezza, no? Quindi ci torneranno questi dubbi, sia il 30 che l'8, saremo in 2 settimane veramente di schizofrenia totale. Però secondo me chi è della Vergine sa che cosa vuol dire essere schizofrenico, perché ce lo viviamo spesso questa sensazione. Non dobbiamo agire impulsivamente, perché le situazioni diventeranno certe a dicembre, quando i pianeti passeranno in Capricorno, e quindi sarà da mettere in atto questi cambiamenti. Nel frattempo non c'è una grande certezza, non c'è la forza, Vergine, ok? Le mie energie, io voglio andare là, però non gliela faccio, sto stanca, mi devo riposare. Dobbiamo ascoltare il corpo, perché la Vergine ha una mente che sta sempre a palla, quindi sta mente mettiamola da parte e famo se tisane, fumamo qualcosa, quello che vi pare a voi. Non dobbiamo agire, dobbiamo acquietarci, no? Che telefoni, ciao Federica, facciamo la data allo suite, ho fatto bene per carità, però pure riposarsi, esatto, e lei sta, esatto, tutte e due esalite, capite? Questo è il bello, no? Che siamo iper stanche. Però effettivamente sentiamo che c'è questo andare verso lontano, non dobbiamo agire impulsivamente, vediamo che a dicembre per la Vergine la situazione diventerà promettente, in virtù del fatto che il prossimo anno sarà la prova del 9 sulla strada che noi abbiamo percorso. Quindi se abbiamo preso la strada giusta, finalmente diciamo saliremo un gradino in più, oppure se abbiamo scelto la strada sbagliata, dobbiamo cambiarla. E in questo caso, in questi giorni però, ci serviranno a capire meglio le cose. Quindi adesso non c'è da lasciare niente definitivamente, dobbiamo semplicemente valutare le cose all'interno di noi. Quindi non facciamo le avventate, perché in realtà non lo siamo, ok? È tutto organizzato per la Vergine. Perché? Perché dentro di noi non potete capire il caos. Ci vedete, ma ci vediamo oggi o domani? Non ci dà la notte, non ci ha data la scelta. Allora, dopo la Vergine, appunto, ci troveremo il prossimo anno a vedere qual è il traguardo della cosa, e soprattutto a noi Natale ci piacerà, a noi Natale ci divertiremo molto, perché comunque la Vergine dal 6 dicembre, allora noi adesso siamo lì, dobbiamo stare a casa, dobbiamo guardare dentro di noi, dobbiamo guardare queste cose del passato per liberarci. Quindi cancelliamo quei vecchi dati, perché comunque questo Mercurio in Capricorno dal 6 di dicembre fino all'11 di febbraio non ci farà dormire, sarà in trigono, quindi lavoreremo come ci piace a noi. Ci avremo talmente tante idee, talmente tante situazioni veramente promettenti sotto, sia a livello economico che a livello proprio di soddisfazione, non solo guadagni i soldi, ma saremo proprio contente. Quindi godiamoci questo momento in cui non ci fate mai niente e cercamo di starsene, così che ci faranno lavorare con controvoglia. Noi vogliamo stare a casa, allora, perché poi non ci staremo mai. La Vergine è sempre iperattiva. Capricorno, Capricorno, mani, mano, ci stanno i Capricorno? Ah, molto importante. Ah, tu sei una bilancia ascendente Capricorno. Interessante. Allora, Capricorno. Capricorno, ci stiamo avvicinando al periodo del Capricorno. Stiamo in Sagittario, questa luna nuova, tutta sta roba nuova. Tutti contenti, scusate. Sto Capricorno che dice, vabbè, ma a me mica mi stanno proprio bene come vorrei io, no? A Capricorno comunque sei sempre su zaino sulle spalle che potoi. Allora, Capricorno, sei nella fase prima della nascita, ok? Quindi è il momento in cui bisogna prepararsi al debutto. Siamo per rinascere, ci dobbiamo preparare per entrare in scena nel miglior modo possibile. Oh, ci tengo a specificare, questo è un periodo d'oro per Capricorno, purtroppo il premier è Capricorno, perché c'è la congiunzione di Plutone, e il Capricorno negli ultimi anni ha lavorato per arrivare a un punto di successo, questo successo è arrivato, questo successo comunque quando arriva è faticoso. Ok, non è che uno dice ah che figo, ma che ruolo che sei diventato, ho capito, però dorma a notte. Allora, Capricorno in questo momento viene da momenti di ansia che li sta cercando di superare. Quindi ci sono state delle cose che non sono andate bene, e Capricorno che cosa deve fare in questo periodo? Semplicemente stare a riflettere su se stesso, perché dal 6 Mercurio per 2 mesi, quindi state lanciando nuovi progetti, sicuro ce ne avete almeno 100 che ne volete lanciare, 3 saranno validi, cari Capricorno, però non è adesso, è dal 6, ok? 6 perché Mercurio va in questo vostro segno e ci rimane per lungo tempo. Allora, diciamo, in questi anni è successa una cosa importante, i pianeti veloci, cioè soprattutto Mercurio che fa delle soste durante l'anno, prima aveva delle congiunzioni in segni di aria, quindi Gemelli, Bilancia e Acquario erano quelli che si godevano sempre questi transiti di Mercurio favorevole. Invece nei prossimi anni saranno sempre i segni di terra, Toro, Vergine e Capricorno godranno dei transiti straordinari di Mercurio nell'anno. Quindi Capricorno, dovete capire che fra un po' non avrete tempo di dormire, quindi invece che pensare che adesso non vi sepita nessuno e voi magari vi sentite di nuovo desfigati, considerate che non vi preoccupate, 10 giorni, dopodiché non sapete a chi daresti, quindi passerete dalla depressione più totale al sentirsi Dio sceso in terra, perché sostanzialmente poi il Capricorno comunque è un segno che sta all'apice del successo, un altro segno che comunque ha un compito importante nella vita, no? Quindi il Leone, il Capricorno non è che possono stare rilassati a godersi la vita, se c'è un compito speciale lo dovete adempiere. Io per fortuna sono da Vergine, ma quale fortuna, vabbè, comunque Capricorno, rilassatevi, state lì, valutate, vedete, chiudetevi a casa, non pensate che sia depressione, è una cosa giusta, state a casa, e nel momento in cui state a casa e vi mettete a sistemare quelle cose e dite oddio mi sento, indipendentemente dal sesso, una casalinga frustrata, in realtà in quel sistemare quella ciabatta, quell'armadio, quella polvere sopra la tenda, sopra, no, all'asta, lì avrete le illuminazioni giuste. Perché dicembre vi vedrà in grandissima scena. Quindi godetevi di questo momento in cui non potete permettervi di non fare nulla, perché a dicembre invece i pianeti vi chiederanno di stare in pole position. Quindi godetevi questo momento di relax, ok, a cui tanto ambite, perché a dicembre sarete i protagonisti di nuovo del cielo, ci sarà il sole, ci sarà Mercurio, ci sarà Venere, sarete ancora protetti da questi pianeti. Certo, Giove vi dice mi raccomando non sentitevela troppo calda, quindi diciamo che da quel 100 che vedete 50, ok, ridimensionate le vostre aspettative, che Capricorno c'ha sempre delle aspettative grandissime nella vita, però più grandi sono le aspettative più si rimane delusi. Quindi che facciamo, aria o acqua? Aria. Ah. Sempre. Allora, cominciamo dal, diciamo, dai Gemelli. Ah, Gemelli che doveva essere un pole position, effettivamente mi sta succedendo di tutto. Allora, questo è proprio il significato dei pianeti, no? Che quando i pianeti ci vanno a toccare, in realtà la congiunzione in astrologia io non la vedo minimamente fatta bene, ok? E Perché? Perché mi va a mettere il così, ho sta luce in faccia, sto sul palcoscenico e qualsiasi cosa faccio, voi mi vedete. Quindi ho la piazzetta, cosa, oggi mi sono pure truccata che non lo faccio mai. Allora, gemelli, si sentono uno, sto paro puntato, sto Marte, che praticamente ti fa sentire la dieta. Allora, gemelli vanno a destra e a manca, faccio questo, faccio quell'altro, faccio questo, faccio sì. Poi dopo tante persone manco le rispondono, invece mo hanno risposto tutto, ma detto, mamo questo, mamo quest'altro, ma... Insomma, tutta una serie di cose dove c'è questa energia di Marte che può funzionare in due modi. Ho tantissima energia, mi incazzo con chiunque, non so come gestirmi questa energia, quindi la sfogo in rabbia. Oppure, no? Si può sfogare col sesso. C'hanno ormoni a palla comunque. Ok? Però se ormoni bisogna capire che direzione vanno. Esatto, sei in mezzo a due gemelli. Dai, andiamo di qua, andiamo di là, facciamo questo, te dici, oh no, io voglio sta a casa, invece ti hanno trascinato, grazie ai gemelli per averla portata qua. Sono sicura che è grazie a voi. Allora, che cosa succede? Che i gemelli in questo momento sono nel punto più centrale della loro vita. Alzate le mani, uno, due, tre. Tanti gemelli qua, ci sta doppie mani, perché i gemelli siamo due almeno dentro di noi. Allora, che succede? Che i pianeti sono in opposizione, cioè Marte in congiunzione. Mi sento carica, voglio fare delle cose, queste cose vengono ostacolate dagli altri. Come vi permettete? È successo tutta una serie di cose in cui, diciamo, non si è riusciti a gestire la propria energia. Considerate che sarete carichi fino a marzo. E il discorso è di utilizzare proprio questa energia. Qual è il discorso dei gemelli? Che i gemelli, avendo proprio questa caratteristica mercuriale di voler fare sempre qualcosa, no? Vergine, Sagittario, gemelli e pesci sono malati dell'azione, noi per me non riusciamo a stare mai, siamo segni immobili, ma in assoluto anche, cioè proprio i gemelli governati da Mercurio, esatto, no? C'è questa cosa, questo cervello sempre attivo. Vergine e gemelli, veramente non dormi la notte, oppure se dormiamo noi comunque abbiamo un decalogo anche di come dormiamo, ok? Quindi insomma è tutto un macello. Allora, vi scontrerete col mondo attorno, ok? Non c'è nessun problema, perché in realtà volete far utilizzare la vostra volontà, ok? Però, allora, attenzione, perché se bisogna fare come dite voi, le persone vi verranno contro, voi li litigherete, vi scontrerete e sarà una lotta totale con tutte le altre persone. Se invece voi vi renderete conto di quello che volete veramente, senza volerlo imporre, saranno le altre persone che verranno da voi, ok? Quindi non c'è più bisogno di dire sì a qualsiasi situazione, perché ci avete paura di perdere qualsiasi cosa. Considerate che, e poi l'ha detto pure la cantante dei Maneskin, no? Che è una malattia, no? È una malattia dei gemelli. C'è qualche serata e tu non ce vai. Cazzo, io mi sento colpa, era una serata figa. Cioè, siamo malati, no? Siamo malati. Allora, no, acquediamoci. In questo momento è vero che abbiamo queste grandissime energie, però vanno un pochino gestite. Ora, è vero pure che quando i pianeti sono in opposizione stanno in settima casa, quindi l'ascendente gemelli comunque può incontrare pure una situazione di relazione interessante, ok? Quindi non è escluso l'incontro con delle persone, però gemelli, vi dovete rendere conto che in questo momento voi siete praticamente un po' degli arieti, quindi quando vi proponete agli altri siete dei caterpillar, magari voi pensate di essere sempre quelle sorridente e scherzosa, invece che proponete davanti all'arte, l'arte se penso che trovasse qualcun altro. Allora è importante da capire che energie state emanando in questo momento. Siete molto assertive, le altre persone possono essere spaventate, quindi siete voi che vi dovete gestire questa grande energia. Quindi c'è sempre Federica la mano amica, e quindi sostanzialmente diciamo che periodo è promettente, ma se lo utilizziamo, io mi scontro con le altre persone, ma non è scontrarsi. Io mi relaziono alle altre persone per capire quello che voglio io e quello che vogliono gli altri. Troveremo la via di mezzo. Non è che si fa come dite voi, che in questo momento è un po' così, o come dicono gli altri. E quindi c'è questa frustrazione. Va sistemata l'energia, cercate quella via di mezzo, perché la situazione è molto interessante, perché trovando quella via di mezzo, quella persona che vi starà tanto sul cavolo in realtà potrebbe diventare la migliore amica vostra, ok? Quindi che ne so, quello che va insultato, quello che odiate, poi sarà la versione più appassionata di quello che potevate immaginare. Quindi insomma, cercate di mediare, lo so che è difficile, però secondo me ci potete riuscire a fare. Considerate che anche per i gemelli, diciamo che i segni un pochino più complessi da qua fino all'8 dicembre, abbiamo detto, sono gemelli, sagittario, gemelli e vergine, sono quelli che veramente ci scontreremo, ok? Quindi in questo scontrarsi, noi adesso, no, i gemelli gli sono disse belle cose, le pensano, capiscono e poi si ritrovano al 30 con una cosa, ok, mi ha detto quello, però io voglio fare questo, però quell'altro mi ha detto fa quest'altro, quindi del 30, oddio che panico più totale. E attenzione, perché l'8, i gemelli, quando c'è la luna piena, potreste arrivare alla crisi totale, è per questo che dovete stare attenti, perché... perché stanno succedendo delle cose importanti, saper dire di no quando è giusto, quindi non dite di sì e poi non lo fate, perché le persone poi vi dicono che avete preso per culo, cioè hanno ragione, poi invece voi avete detto sì a tutti, era benevolenza, però non funziona, ok? Può succedere questo, attenzione a come tirate fuori le cose, perché da qua all'8 dicembre, gemelli, la situazione, se non viene gestita bene, potrebbe esplodere. Perché? Perché alla luna piena dell'8 dicembre, no? Che sarà in gemelli, questa luna sarà congiunta a Marte e ci sarà sto Nettuno, Giove, con cose del Sagittario, quindi sarete massacrati, comportatevi bene, valutate bene le situazioni, non fate finta di niente, non date l'ultima, la prima risposta che vi arriva, perché ne pagherete altamente le conseguenze. E mi raccomando, è uno dei punti più centrali, no? Proprio uno dei segni che si deve imparare a gestire questa cosa, ma sì, faccio questo, sì, faccio quell'altro. Bisognerà cominciare a scegliere qualcosa. E quanto è difficile scegliere? Tanto, perché se io scelgo una cosa, quell'altro la devo escludere. Esatto, non ci si dorma, no. Ascolta la vocina interiore. Dov'è la vocina? Esatto, ce ne abbiamo tante le vocine, infatti chiamiamo sempre lo psicologo. Allora, dopo i gemelli, facciamo la bilancia, stanno bilance? Allora, la bilancia, a bilancia, in realtà a un certo punto il periodo del compleanno, scusa Sagittario, mi ha finito vodka tonic, ho delle persone di un amatore vicino, c'è stato una volta un errore, bevo vodka, non lo dico a te, lo dico a tu, l'hai già capito, però uno dice no, scusiamo per il disastro, no, con me non c'è stato, allora, però sto finendo. Allora, il giorno del compleanno, la bilancia, in realtà, c'ha, siccome c'ha st'amore per la compagnia degli altri, no? Allora, gli piace ritrovarsi su quel divano in cui può chiacchierare degli altri. Spettacolare qua, spettacolare là, ma chi gli piace chiacchierare? Gli piace chiacchierare perché gli piace socializzare. Perché la bilancia ha bisogno di stare sempre con qualcuno, quindi se non parla impazzisce. Allora, durante il compleanno, questo ottobre, in realtà è stato bello, questa è la bilancia, è stato bello, tutto bello, bellissimo, a un certo punto tutta la gente che ti chiamava, ti faceva auguri, ti si sentiva fighissima, no? Poi sono passati le cose in scorpione, non mi chiama più, forse vedo da questo, forse vedo da quell'altro, ma magari i soldi non mi bastano, però mo io fa un regalo, no? A un certo punto passano praticamente in questo Sagittario e torna invece la voglia di sti cavoli di farsi sti conti, ma chiacchieriamo, io quello che voglio manare, chiacchieriamo, capito? Non c'è bisogno di questo, non bisogna mai lasciarlo solo, mai, ad un diritto, lo pagherete nelle prossime vite. Allora, bilancia, questi pianeti il Sagittario troverà nuove amicizie, nuove persone con cui parlare. Adesso il tabaccaio che non le salutava più gli regala un pacchetto di cartini, una cosa, un miracolo, no? Una bellezza incredibile. Finalmente alla bilancia, perché la bilancia va, c'ho la psoriasi, mi sento sola, non mi parla nessuno. Oddio, che bello sto al centro della scena, capito? No, no. Il salotto è tutto il mio. Regalate che un bel divano. Bello. Alla bilancia si vede quando regala. Allora, se i pianeti in Sagittario vi favoriranno tantissimo. Abbiamo detto che questi pianeti in Sagittario dureranno poco, però intanto godetevi questa cavolo di scena da qua fino a 6, 10, perché il 6 è Mercurio, quindi ti vuoi regalare delle cose, a voglia, a bilancia si può fare sempre i regali per se stessa, ogni tanto va pure a voi. Però quando vi fai regali, oh, pure se veniva a pochi, sono sempre azzeccati, eh? Cioè, nel senso, hanno un gusto veramente incredibile. Toro e bilancia, cioè avete bisogno di investire, tutta la... loro sanno praticamente, essenzialmente, cosa vi sta bene, anche se voi pensate di no. Allora, periodo promettente per quanto riguarda le relazioni, devi accettare tutti gli inviti delle amiche che ti presenteranno altre amicizie, che ti presenteranno quella persona giusta e ti sentirai finalmente di nuovo accolta con una socialità incredibile, tutta una bellezza. Poi un po' come la rete arriva a Natale, la famiglia, quello ci ho litigato, cioè a cena, quell'altro così, però quell'altro non mi vuole. Allora godete questo momento, ok? Avete il tempo, non vi preoccupate per soffrire e lamentarvi di questa melanconia che tanto amate, ok? Lo farete poi, adesso vi dovete godere la vita, perché i pianeti vi permettono in questo momento di stare bene, più uscite, più socializzate, più arriveranno quelle proposte interessanti che possono riguardare anche l'ambito lavorativo, quindi possono essere firme dei contratti, dei cose, insomma. La bilancia è un'energia incredibile, quindi è per questo che non bisogna lasciarla sola, perché se la lasciate sola magari stanno a casa, quelli già stanno a palla e magari, che ne so, hanno ammazzato vicino, no? Allora cerchiamo di aiutare l'umanità. Facciamolo per gli altri. L'ariete non esiste nel zodiaco. Quindi insomma, bilancia, godetevi questo momento, sappiate che in realtà state ancora in una terra promessa e protetta, però il periodo di dicembre per voi è sempre difficile. Un zio, il nonno, il cugino, mio padre che è morto, mio nonno. Insomma, diciamo che per la bilancia è sempre un pensare a quello che non c'è. Quindi la tristezza ve la affronterete, che comunque è sicuro, è standard. Cioè avete il budget per il Natale infelice, non ve lo preoccupate, è assicurato. È adesso che vi dovete godere la vita. E soprattutto se dovete firmare dei contratti, mi raccomando, fatelo da qua al 6 dicembre. Poi se vi capitano dopo, sicuramente la situazione è conflittuale, però non state ad aspettare a chiarire le cose. No, è in un problema, sono decisa, non so che cosa fare, forse è meglio che non glielo dico. Allora, dove dici a stronza, lo devi parlare adesso. Ci sono le parole giuste, la possibilità di avviare delle cose e di chiarirle, perché tutto ciò che succede dal 6-10 dicembre e poi è ostacolato, quindi poi dopo rimanete frustrata e dire è vero, quindi non devo parlare. No, lo devi fare semplicemente prima, ok? Quindi vietato stare a casa. Accettate qualsiasi cosa, chiamate il telefono amico, fate quello che vi pare, perché? Perché quando i pianeti poi passeranno in Capricorno, quello che volete fare, diciamo, dal 6 dicembre e poi è chiudervi a casa e non parlare con nessuno. Quindi non vi preoccupate, pressione c'è, non va a togliere nessuno, No, perché poi si preoccupano, dice no, va tutto bene, no, non vi preoccupate. ci sarà il momento anche per il momento per piangersi addosso. Ci piace a tutti farlo, no? Quindi è bene sapere quando chiudersi a casa e quando no. Quindi bilancia, goditela tutta e poi dopodiché passerai questa cosa con queste candele, sto non so, sto sole Invictus così, che sono andata a fare per cercare l'amore dentro di sé, ok? Quindi la bilancia, quello che andare a cercare l'amore non è esterno, è l'amore per se stessi. Bilancia, qui è acquario. Acquario ci sono? Ci sono gli acquario. Allora, acquario. Allora, l'acquario si vive, sto Marte a lavorare a bilancia, c'è un sacco di energia, abbiamo detto, no? Quindi lo sport e il sesso sono sempre fuori di voleva acquario. Però che succede che l'acquario? Che sono 3 anni che c'è stato sto Saturno in congiunzione. Quindi sto a fare sto nuovo progetto, devo fare queste cose, ho sta fatica, tutta una serie di cose. Questo Marte che spinge a girare, facciamo. Però poi a un certo punto c'è un po' di ansia. Cioè, nel senso che fino all'altro ieri l'acquario si è scontrato con tutti, anche con la propria immagine riflessa. Ok? Perché? Proprio perché sto facendo queste cose io mi sto impegnando tanto, non stanno andando come vorrei io, ok? E non stanno andando come vorrei io, perché? Perché l'acquario è legato così a un ideale di come deve essere sta cosa, che se non va in quel modo, a cavolo, allora è fallimentare, non funziona, no, non è vero. Allora, questi pianeti in Sagittario, l'acquario oggi deve proprio brindare, perché sono finiti questi pianeti in Scorpione che vi hanno fracassato l'anima. Le facciamo un capo? Quindi praticamente acquario, avete litigato con il mondo intero, il mondo vi ha fermato evidentemente. Allora, perché c'è tutta una visione dell'acquario in cui il segno libertario per eccellenza, no? Come la Vergine è ordinata, la Vergine è iper disordinata e l'acquario auspica la libertà, perché dentro di sé c'ha 350.000 prigioni, quindi quello che vede in prigione è il vostro ideale, che se non va in quel modo, allora dici non funziona niente, non è così. Allora, acquario e sagittario sono due energie molto simili, una secondo me è una delle accoppiate più belle, no? Proprio perché c'è questa visione di questo futuro incerto, che a me non piace, l'acquario sicuramente è quel segno che ci porta proprio verso un cambiamento. E allora, il sagittario manda l'idea, ok? Capricorno l'attua. Con l'acquario siamo lì che comunque queste cose le abbiamo attuate, no? Stiamo facendo delle cose, però queste cose sono faticose. Ma allora è giusto? Allora, vi siete liberati di tutta una serie di problematiche che vengono sicuramente dalla situazione lavorativa che vi sta affaticando da 3 anni. 3 anni. In questi giorni potete fare un inventario di quello che è successo, in modo che potete finalmente relazionarvi con la giusta energia, ok? Quindi ok, sono successe queste cose, io adesso mi devo rimettere in carreggiata, quindi la situazione è ottimale, soprattutto perché diciamo che a marzo del prossimo anno voi liberate definitivamente di Saturno, quindi via la stampella, via la fatica, arriveranno le soddisfazioni in tutto quello che voi avete seminato negli ultimi 3 anni. L'acquario sta facendo delle cose da dicembre del 2020 che hanno destato veramente impegno, fatica per il segno che comunque non vorrebbe lavorare mai, idealmente, sempre idealmente, eh? Idealmente non lo vorresti fare, però poi alla fine, esatto, è questo, idealmente non vorresti lavorare e poi stai sempre lì rigido a mantenere a stare sul pezzo e ti senti prigioniero, ma sei prigioniero di te, non dell'altri. È questo il discorso, sei te che ti imponi delle regole, è questo, Oh, non lo distraete a sto ragazzo, eh? E lei è da Ariete, vuole essere protagonista. Questa toia a scena. È una bella accoppiata Ariete, Ariete Acquario, bellissima, siete bellissime. Siete benedetti dal cielo, siete perfetti. Ci piacete, ok? Però sta Acquario, ogni tanto bisogna farlo lamentare. Mo vabbè che voi volete lamentare insieme, però. Allora, sono finite tutte e sono succede, l'altro ieri volevate comunque voler. Allora, bello, perché idealmente loro sono per la pace e la solidarietà. E poi vorrebbero ammazzare le persone. Quella ha buttato la mondezza nel secchio sbagliato! Queste sono le cose che li fanno impazzire! Capito? Darebbero fuoco alle persone, loro perché hanno buttato, e loro sono libertari! Cioè, da capire queste cose! Però è così, è sbagliato, è giusto che è sbagliato! Dai, però per giù però l'idea ce l'hai, non lo fai, cioè nel senso non la altro, tu a livello ideale gli daresti poco e non lo fai, ok? E nel frattempo tu a casa tua non riesci a buttare nemmeno il laccetto del pane sotto, hai capito? Stai pure, e sono tue prigioni, non quelle dell'altro, nessuno ti condannerà perché hai buttato quel laccetto del pane sottovuoto che nemmeno avresti comprato perché talmente il pane fresco. Capito? Queste sono le prigioni dell'acquario. È importante che la sapete. Quindi praticamente voi volete fare un torto all'acquario? Rovinate la raccolta differenziata? Oppure gli lavate i panni? Ma non vi permettete mai di lavare i panni a un acquario. Anche perché io vi dico che l'acquario sa stare bene molto, molto bene. Non sapete quanti problemi ha avuto questo coso. L'acquario? Non c'è il sagittario. Comunque, no, perché mi ha sistemato la cosa. L'acquario non gli dovete mai pulire la cucina e manco i panni. Ci tengono tantissimo. Hanno una cucina proprio, i panni dici vabbè mi può pure lavare, però poi te lamenti che non vengono bene dritti, vabbè almeno i postenne. Allora quanto stanno bene i panni acquari, perché non li sventolano? Quindi fate che stanno i panni acquari, lavi te, io comunque cerco chi mi lava le mani perché sono da vergine, la lavatrice è veramente per me difficile e complessa, soprattutto la macchia, il problema macchia della vergine. Poi farò, no, poi vergini, parliamo del problema macchia. Comunque adesso, acquario, non vi preoccupate, sono finite le soluzioni. Vanno praticamente ci sono stati acquario che si sono fatti male, acquario che volevano fare una cosa e qualcuno si è messo contro a quello che voleva fare. Tutta una serie di scontri in cui acquario, sì, idealmente quello che dice è giusto, ma a livello pratico, ti sono andato, a livello anche umano, se effettivamente quelle cose erano giuste o meno. Comunque, questi venerdì in Sagittario ti aiuteranno di nuovo a rientrare nella comprensione dell'altra persona, ok? Quindi diciamo si rientra in sintonia con gli altri, non esisterai solo tu con le tue sfighe del momento perché sono superate. Poi dopodiché ci sarà questa, ah che bello, finalmente vai, sfighe del momento stanno passando, ok? La prigione è solo dentro di te, non esiste fuori, quindi te la stai creando tu. Cosa succede? Succede che i pianeti ti permetteranno, che c'è la ragazza che ti porterà nel mezzo a tutte le altre persone e te divertirai e dici ah però che vedi che bello uscire invece che stare lì, no? A pensare ai massimi sistemi della vita. Quindi bello questo dicembre, è bello anche la non dai Ariete, non gli rompe le scatole, è proprio protagonista, chissà da quanto gli ha da. Vabbè, io poi pubblicherò questo audio, quindi qualsiasi cosa uscirò senza tagliare niente, qualche cosa, sto facendo un audio che verrà pubblicato per tutte le altre persone non presenti, quindi mi dispiace, fate parte di questa scena, per fortuna le facce non le vedono e siamo salve. Quindi è il momento di uscire, di socializzare, di stare bene, di fare le cose insieme ai gruppi e alle altre persone. Quando i pianeti arriveranno in Capricorno, siamo nella fase prima della nascita, quindi sappiamo che sotto Natale, che fa l'acquario? Dice, vabbè, ma che è sta festa convenzionale? Che senso c'ha sto Natale? Insomma, no, quindi comincerà a fare la propaganda anti-Natale. Invece fa propaganda anti-Natale, statene per cavoli tua, a casa tua, a fatta un po' di sana introspezione, perché tanto comunque tu ad apprendare sul fatto che c'hai avuto 3 anni di Saturno in congiunzione, che il prossimo anno finalmente se ne va. E diciamo questa parte di secondo di dicembre, quello che ti serve è di guardare indietro quello che è successo, perché così tu fai un bel semplice riassunto, perché è arrivato il tempo che l'acquario dopo 3 anni di fatica va a prendere i risultati di quello che è successo. Quindi se la via è giusta, arrivano grandi soldi, queste relazioni sempre più promettenti, se no dici vabbè, presa la strada sbagliata, cambio strada. L'acquario lo sa fa benissimo, però in ogni caso è proprio un finisce la fatica. L'acquario ha cominciato questo nuovo ciclo in realtà, quindi dal 2023 guadagnerà su tutte le fatiche, anche perché negli ultimi 3 anni avete lavorato, è incredibile, se andate contro questa vostra cosa di libertaria, no? Lavoro e sfruttamento, vi siete autosfruttati e sarete soddisfatti dei risultati ottenuti. Quindi insomma, diciamo che è il momento di socializzare, dopodiché sotto Natale volete stare a casa, lui non vuole uscire, lei è presa male, lei non vuole uscire, che te frega? State a chiusi a casa. Che tu fai dal sud? Avere una sorella che si chiama Stefania, è nata al 26? Lo so, io ho un fratello nato il 1° dicembre, almeno c'hai le sfighe. Però la sorella, tu che fai? La chiami sorella, ma tu che vuoi fare questo giorno? Io già ho chiamato mia sorella 1° dicembre, ma io sono occupata. E Grillo invece per il compleanno qua 1° dicembre, quindi qui ci sarà una festa. E non lo so se lui lo voleva dire, Io ho fatto spoiler. Vabbè, comunque, io non riesco a avere troppa privacy, mi scusate, sono spontanea. Allora, dopo l'acquario che si è sembrato protagonista, perché comunque l'acquario è all'opposto del leone, quindi il leone c'ha un grande ego, ma pure l'acquario c'ha un ego immenso, e quindi che ci manca? L'acqua. Cancro, scorpione, pesci. Allora facciamo pesci. No. Facciamo il cancro. Vabbè, lei amò, aspetta. È abituata. No, il cancro ci rimane male. Poi ancora c'è un sacco di gente. Allora, cancro. E poi pesci. Vabbè, lo scorpione possiamo mettere per ultimo, perché da tanto ho fatto lo speciale scorpione. Quindi loro sono già soddisfatti. Il scorpione è già stato goduto. Allora, cancro. Allora, cancro. Abbiamo detto anni mazzolanti, tutto così, che vi potevano crogiolare in questi occhi da cecchino, no? Poi a un certo, quindi, che ne so, settembre, ottobre, ora la sfiga, proprio che ad sfoderare questa grande sfiga, poi ottobre, novembre sono successe delle cose belle, carine, soddisfacenti, siete state bene. Siete... Ciao ragazzi! Ma tu che segno sei, Riccio? Come te. Come... è innominabile. Anche io, guarda, c'è una profonda empatia per noi che nasciamo, che dovremmo rinascere in un'altra vita. Noi se capiamo. Se capiamo molto. Ciao, grazie mille. Poi la rete è rimasto fino all'ultimo. Hai visto? Lui doveva andare via, sta andando via adesso. Perché se no mo. Vabbè, sono cose giuste. Scrivimi! Vabbè. Vabbè. Avevo detto il canto. Canto che capisci. Allora oggi mi sono meno concentrata sul discorso di come sono fatte un po' le caratteristiche dei segni, però secondo me era fondamentale. Vabbè, ve prodigo sempre. Vabbè. Allora, praticamente. Vabbè, però io faccio tutto a braccio spontaneamente. Quindi quello che mi esce io a volte mi devo riascoltare. Ok? Perché se io mi fa. Se voi mi fermate per strada e mi chiedete una cosa, io sono gentile e vi dico le cose più gentili. E invece il cabaret no, non me ne frega niente. Ok? Allora, abbiamo detto cancro, non so se sta capita sta cosa, nel senso che comunque quando faccio il cabaret non esiste nessuna bontà, vi dico come sono i pianeti e come si indirizzano, ok? Se mi beccate in un momento di benevolenza cerco di fare la vergine amabile, capito? Quindi dovete venire a cabaret, questo per far del succo da per sentire la verità, nel senso che mi devo sentire l'oroscopo per la vergine di quello che ho detto in serata, ok? Perché se no mi mandi galle da sola. Ok? Quindi cancro si è divertito, ok? Dopo aver avuto il suo momento lacrima da ciucchino fuori casa che gli piace, sostanzialmente, c'è stato il momento del divertimento. Ah, che figata! Infatti il cancro si sente un po' dispiaciuto del fatto che i venerdì sono passati in Sagittario. Ah cavolo, tutta sta beneficenza, dove stanno i cancro? Lei si vedeva, no? Sta bene, mi so canto, sono stata bene, mi sono goduta la situazione. Ah, che figo, è vero, non c'ho il massimo delle forze, però esco, mi diverto, incontro persone, a un certo punto che viene in Sagittario per il cancro, c'è un po' un richiamo al dovere, tipo, ah, domani dobbiamo fare questo, domani dobbiamo fare la spesa. Già questo è un dramma. Non è che domani stiamo sdraiati sul divano a farsi una tisana e ci guardiamo un film. Diciamo che i pianeti in Sagittario spingono il cancro a fare delle cose quotidianamente, cioè tutti i giorni. Domani ti dovrai svegliare presto per fare delle cose, anche dopodomani ancora, perché ti dovrai occupare di certe cose. In realtà per tante persone è stimolante, io non lo so per voi, poi magari mi fate un feedback. Però i pianeti passano dalla quinta casa, quindi mi sono divertita, sono stata bene, mi sono rilassata, mi sono divertita al fatto che effettivamente ci sono delle cose di cui mi devo occupare giorno dopo giorno per risolvere delle questioni. Ora, diciamo che la sesta casa è legata anche alla salute, quindi se avete qualche acciacchetto, io vi prego di non sottovalutarlo, ok? No, devo aiutare mia madre, mio nonno, mia zia, mia amica mia. Se avete delle cose che dovete farvi vedere, farvi controllare, cioè nel senso, pensateci a voi, non soltanto a prendervi cura degli altri, perché diciamo la sesta casa è proprio legata alla salute e alla quotidianità, giorni molto impegnati, quindi vi faranno delle proposte lavorative, è difficile dire di no, perché saranno abbastanza promettenti, quindi è un momento in cui ci sarà una grande attività e soprattutto io vi invito a sbrigare le cose adesso, perché il cancro, un po' come l'ariete e come la bilancia, a Natale sempre tutto un gran tormento, il regalo, la cena, i parenti questi, noi parenti, il cancro per esempio, ecco, è quello che deve decidere tra un parente o un altro, poi ci direbbe sua, cioè la guerra dei rosi, oppure Romeo e Giulietta, no? Queste famiglie che non si possono vedere ma devono essere messe insieme, ok? Ci sarà questa enorme frustrazione, ma a dicembre. Adesso invece potete sistemare quotidianamente, ci sarà una grande attività. Ah, domani mi svegli, già ti chiamano. E dici, oddio, ma come? Io voglio stare rilassata. E invece no. Praticamente, cancro. Allora, innanzitutto, diciamo, tranne la prima parte dell'anno, comunque del 2023, in cui vi sentirete ancora sfigati del mondo, che campo a fare, tipo leopardi, no? Dopodiché, dopo superata questa fase leopardi dell'inizio dell'anno, siete tra quelli migliori del 2023. Però nel frattempo, in questo momento, ci avete penetra la sesta casa, che bello, devo fare questo, devo fare quell'altro. Dopodiché arriva sti cacchio dei pranzi, cene natalizie, no? Devo stare qua, no, devo stare là, devo fare questo, quell'altro soffermo. In realtà quelli che soffermo siete voi, non so, gli altri. Però insomma, ecco, questo per dirvi che è bello perché sì, diciamo, è bello. Avrete delle cose da fare, non vi potrete troppo rilassare, per voi non è bello. Dovete uscire dal divano per poi arrivare un dicembre in cui vi scontrerete per il discorso di come orientare queste vacanze natalizie che voi in parte amate, però in parte odiate, perché il cancro è così legato al clan familiare, cioè proprio Romeo e Giulietta viene dal cancro, ok? Lascia il tuo nome, tutta sta roba, viene dal cancro, quindi faccio delle cose, organizzo, a un certo punto devo organizzare queste cose natali e capito? E il cancro si scontrerà con tutti, ok? Con queste poche cose. Non ti preoccupare, succede tutti là, neanche quando sei nata. Non ti è mai nato un Natale come volevi te. È inutile che ci sta, lascerai un altro segno. Ci stanno altri momenti importanti, magari la Pasqua, quello che ti pare, ma non è il Natale, è il tuo momento. E in questo momento però possono succedere le cose quotidianamente in cui ti puoi occupare di tante cose e magari se senti qualche malessere e guarda e batta a fa pure un controllino, succede niente. Dobbiamo pensare prima a noi stessi e poi agli altri, perché poi con questo discorso dell'egoismo, no? Sembra che se noi pensiamo, grazie di tutto Giuliana, sembra che se noi pensiamo a noi stessi stiamo a fare un torto all'altro. No, non è vero, è tutto il contrario. Dobbiamo pensare prima a noi stessi, non vuol dire essere egoisti, ma se non sono bene io come faccio ad aiutare gli altri? Invece se io praticamente ho la casa completamente sporca, praticamente non c'ho le cose da mangiare, non c'ho i vestiti e poi vado ad aiutare gli altri, secondo voi è giusto? No, prima dobbiamo essere centrati su noi stessi e poi sugli altri, questa è la cosa più importante. Quindi dopo la centratura su voi stessi sicuramente ci sarà un po' quella guerra dei rosis su quale famiglia, ah però mi va, perché è bello, perché poi il cancro in coppia ci sarà quello che dice, ah mia madre e mio padre mi hanno chiesto di stare in questo giorno, e quell'altro anche mio padre e mia madre, quindi ci danno questi scontri qua, insomma, no? Poi se, soprattutto se non stai in coppia c'è i genitori separati, ok? Se c'è un genitore solo, secondo me sei fortunato, se non ce n'è nessuno ancora di più, però sono visioni in vita. Importante, a un certo punto noi cresciamo, quindi ci dobbiamo distaccare. Dai, goditi di questo momento di grande opportunità per fare un sacco di cose, veramente un controllo di quello che è la salute, dopodiché dai, è sempre un po' devastante quello che è il Natale, però in questi incontri scontri l'importante è stare insieme anche se stiamo male. E quindi faccio invece, non lo so, poi mi riascolto. Però voi lo sapete, secondo me voi lo sapete del campo. Allora facciamo il rovescio e poi facciamo lo scorpione, perché allora abbiamo detto che lo scorpione finisce tutto anche che... Allora praticamente i pesci in questo momento, allora i pesci hanno alti e bassi da quando, praticamente da sempre, ok? Allora che è successo? Con quei pianeti di scorpione in realtà a un certo punto, dopo tutta una serie di cose fallimentari di luglio, agosto, settembre un po' così, ah che figo, finalmente sembra le cose che stanno andando bene, ok? I pesci si sono trovati in situazioni con i pianeti di scorpione, come dice, ah, allora vedi che ho incappata la strada giusta. Allora bisogna vedere, aspetta, perché Giove in realtà è di nuovo in pesci e ci sarà fino al 20, vai a guardare bene, vai a guardare bene, perché è vero che i pianeti sono in sagittario, quindi formano una quadratura, ok? Però diciamo che i pesci in questo momento è come se fossero esposti sempre sotto le luci dei riflettori. Quindi qualsiasi cosa farai, soprattutto a livello professionale, possono succedere le cose veramente molto interessanti. Così interessanti da raggiungere un grandissimo successo in realtà, ok? Perché c'è un Giove che vi aiuta. Quindi delle cose che sono nate già all'inizio dell'anno potrebbero prendere forma. Io non sprecherei, cioè io chiedo ai pesci di stare molto attenti, invece che, siccome i pesci, un po' come la Vergine, no? Uno è la ombra dell'altro, no? I pesci sembra che hanno la testa per l'aria, in realtà dentro di loro sono rigorosissimi, ok? Invece entrare proprio dentro la connessione dell'universo in questo momento, se voi andate nell'intuizione riuscite a vedere qual è veramente la vostra strada. È importante questo momento perché i pianeti vanno in decima casa col Sagittario, quindi sì, è una quadratura, che mi porta all'apice del successo. Quindi è un po' come stare, che ne so, in Truman Show piuttosto che il Grande Fratello, stiamo là, ok? Quindi sei vista da tutti i pesci, e in questo momento però, se fai le cose bene, potresti raggiungere quel incredibile successo che hai sperato da quando sei nata. Allora, praticamente i pesci non è che vanno campate, lavoro dipendente, esseri umani come noi che fanno delle cose normali. I pesci no, i pesci sono artisti, quindi dovrebbero campare con i soldi di un libro, di un disco, di una creazione artistica, di questo devono campare i pesci, non devono di un furto in una banca secolare, cioè, nel senso, in queste cose che porteranno una rendita nel tempo, non uno stipendio mensile. Lo stipendio mensile è per noi comuni mortali, ok? Non è per i pesci. Allora, pesci, potrebbero succedere quelle cose che, se incappate, se voi state in sintonia con l'universo, vi potrebbe arrivare l'intuizione per fare quel salto incredibile che da sempre, da quando siete nati, pensate di fare. Quindi è veramente un momento ricco e rigoglioso, ok? Ci saranno. Lui, ma che abbiamo detto che il segno era acquario. Abbiamo detto che l'acquario sta da parte a parte del leone, c'è un ego incredibile. Si vede? Hai visto? Guarda, acquario, leone, no, basta che mi taggate. Questo c'ho ascendente ariete. E che pensate che l'ego ce l'avete solo voi, non è che io mi sono creato il personaggio così. Ah, mi sono passato pure sto coso. Però posso. Secondo voi, però è meglio che io guardo su, no? Se guardo giù me ne è il doppiamento, no? Questo succede. Allora, dai, pesci, ci sono delle cose che mi possono portare al culmine del successo. Vi potete bruciare così come una cartina tornasole, come potreste avere il più grande successo in questo momento. Considerando che i pesci in questo momento si rivivono questa congiunzione di Giove che finisce il 20 dicembre, quindi altamente promettente, raga, non dormite sulla lori, non state lì sdraiati su una cosa sola a fumare, nel senso che va benissimo, ma in questo momento però lo potete fare solo per farvi arrivare le intuizioni, perché veramente potrete fare quel colpo veramente serio che avete sempre desiderato nella vostra vita, soprattutto perché nel prossimo anno voi vi passerà lo scettro dall'acquario, tutta sta fatica, guardate l'acquario come sono faticati, queste rughe che sono venute negli ultimi anni, ecco, Saturno in congiunzione. Allora voi vi aspetta il trono il prossimo anno di Saturno in congiunzione, che in realtà viene sempre visto come una sfiga più totale, invece Saturno in congiunzione getto i semi e creo qualche cosa che mi porterai tutti dell'anno, anche se faticherò. Quindi diciamo che questi periodi sono d'oro, perché state per veramente per fare il disco d'oro, il libro dei successi, quello che vi pare. Non state là a crogiolarvi nella cosa, vi dovete da muovere, controllerete gli ostacoli, voi rimanete centrati su voi stessi, credete in voi, perché sono anni veramente importantissimi. Quindi nel prossimo anno poi vi tocca gettare suo semino della stabilità, che durerà 3 anni, quindi poi toccherà lavorare, impegnarvi, eccetera eccetera, ma sarete contenti. Adesso no, è proprio un momento, Scorpione, poi ve lo dico, io Scorpione non deve essere il preferito. Poi vabbè, laggiù il pesce è lontano, mi sta sembrando sentito, dopo vi faccio fare un feedback. Allora, lo Scorpione è il segno che ha passato lo scettro al Sagittario. Quindi noi veniamo dall'energia Scorpione. E lo scorso mese noi eravamo qui proprio a parlare di quanta energia lo Scorpione stava creando. Considerando che chiunque nasce Scorpione in questa vita sicuramente verrà a contatto con prove della vita veramente importanti e pesanti. Questo perché? Perché proprio deve seguire la sua via, ok? Più se si attacca alle altre persone, non riuscirà a seguire la sua via. In realtà lo Scorpione è il mago dello zodiaco, proprio come archetipo, ok? È il mago, quindi distruggo e costruisco. Però, esatto, per capire questa energia, lo Scorpione deve venire a contatto con tutta una serie di dinamiche abbastanza pesanti. Quindi lo Scorpione è stato in congiunzione con tutta una serie di pianeti, sono successe tantissime cose, quindi tanto ho quasi finito. Ce l'hai con lo devi sta zitto. Okay, allora è bellissimo perché ogni volta che c'è una persona che attenta sul suo segno c'è qualcuno che gli rompe le scatole. E qual è il tuo compito? Dio, zia, è il momento mio, non mi rompe il cazzo. Allora abbiamo detto io all'inizio, ma magari chi non è. Allora che quando viene usata sta parola, cazzo, che io oggi ho usato un po' più del normale, non mi piace utilizzare le parole perché Mercurio ho un bilancia. Però solitamente il cazzo viene usato come il modo dispregiativo, sempre. Quando una cosa invece è bella, è figa, ok? Quindi quando parliamo di figa, figa è bella. Questo ci aiuti a capire che non è sottomissione ma è invidia quella che ci hanno perpetrato per 2000 anni, prima o poi ci riusciremo. Comunque, in ogni caso, Scorpione, sono successe delle cose. Si è rinati e in questo rinascere, dopo aver subito negli ultimi anni una quantità di batoste, però lo Scorpione nasce per ricevere le batoste proprio per fortificarsi e lasciare andare tutto quello che è l'attaccamento. Quindi che succede? No? Tante cose sono nate, e in tutte queste cose che sono nate sono molto interessanti, cioè da valutare, no, nel senso, perché a livello ideologico le cose sono sempre fighe, no? Belle, quindi diciamo figo è bello, però poi tocca farsi i conti, e lo Scorpione in questo momento è il momento in cui di valutare tutto quello che è successo negli ultimi mesi, perché c'è un discorso di andare a vedere economicamente anche tutte queste fatiche. Lo so, lo Scorpione dovrebbe lasciare andare, lo so, però in questo momento toccherà farsi i conti. Ti serve? Per esempio, fai i conti, ti arrivano quelle cose da pagare che te volevi, quella multa che ti sei dimenticata. In realtà pensa che potresti avere pure dei crediti, potresti decidere che invece, allora innanzitutto, vabbè è successo, agenzie delle entrate mi ha restituito dei soldi, può succedere, è una figata, sempre una figata può succedere, ok? Quindi insomma, Scorpione, è il momento in cui magari hai fatto delle cose, sono state molto difficili, hai guadagnato dei soldi, hai capito che vali, perché ogni tanto poi lo Scorpione dice no vabbè, ma che campo fa in realtà? E invece nell'ultimo momento ci sono stati grandissimi riscontri, cioè il mese scorso c'è stata una congiunzione diciamo dei pianeti in Scorpione, quindi tante cose sono nate, tutte le cose che sono nate in questo mese. Che è nato in questo mese? No, è promettente. Se non è nato niente, allora guarda, ci possono essere proposte, ci possono essere delle situazioni. Se vuoi fare degli acquisti, anche importanti, è il momento giusto, ok? Quindi diciamo che si muove tutto più sull'ambito pratico, proprio perché il momento di eccellenza è stato prima. Quindi ce l'hai sprecato? No. Che ascendente c'hai? E calla. Questa ragazza è sperduta. Dovrebbe ritrovare la strada. Scorpione ascendente Scorpione. Allora tesoro, zio. Domani ti chiamano e ti cercano, ma sta un pesco. Ma sì, ti stanno a offrire i soldi. Vai a comprare, ti pagano. Aggiorno al listino tu dei prezzi. Sì, sta messa bene. Sta messa bene, se lamenta, vabbè, ne parliamo in privato. Allora, lo Scorpione in questo momento è rinato, dopo che è rinato ha lanciato tutta una serie di situazioni promettenti, credi cavolo in te stessa, perché è il momento di valutare quanto vali. Quindi sei brava, alziamo i prezzi! Non diamola facile, prezzi alti. Allora io diciamo che dopo 2 ore penso di aver finito. Sì, 1:52. Io sto con la registrazione. Ci becchiamo fuori dal palco. Vi ringrazio. Sono commossa. Sarei uscita dai lati.